occupa di questo foglio che mi hanno mandato loro. Ma sì, perché non le avevi mai dato la fotocopia del documento? Negativo, negativo, a Franco gli hanno accettato, a me no. Ma ti giuro, me la chiappi tra quasi bassa. Giuro, me la chiappi tra quasi bassa. Anzi, a me è passata da a uno a una che era un po' di cicanimusci, e allora niente, no, non me l'hanno accettata. Poi gli ho mandato la fotocopia, la patente, infatti prima di mandargli la fotocopia ho telefonato, ho detto va bene la patente, certo che va bene, e gli ho mandato la patente. Cappa, è la cosa di ascolto, non te l'hai fatta, Luca? No, negativo, non parecchio, già me la faccio a fare. Appena mi procuro un apparecchietto per ascoltare, me la faccio. Ma mi ha detto non ce n'è bisogno, Te la fai tra incornici, ma me la faccio ugualmente, non so, vici 20-30 euro che mi costa di povero. Dai, che me la faccio più in là, roba, adesso vediamo, ma di questa estate me la faccio. No, no, non è obbligatorio farla, perché se ti vuoi far mandare la testata devi pagare la vacca a mollo, 14,62 te lo mandano, se no non c'è bisogno di niente, però è sempre bello averlo, fai bimbe da figura, te lo danno in cartoncino, io mi ho fatto una cornicetta ed è bello vederla. Cappa, ma adesso vediamo. Comunque Roma non ti arriva niente, come ha detto Natalino. Praticamente ti rimane un foglio, che sono quel foglio dove tu dichiari di voler utilizzare il sistema radioelettrico CB, banda cittadina, no? Poi basta, poi gli pinzi il versamento e basta. Poi non viene controllo per vedere quello. Prima ti mandano una concessione, che voglio una vecchia. Sembra che sia del 2000, lascia vedere. Ma che sia del 96. Ma se io sapevo così, lo mandavi di lì e te lo tenevi la copia come controllo, per i controlli. Invece, cosa mi ha detto di no, Claudio? Dice no, ti devono mandare una copia loro. Infatti, ho detto, mi maestrano, ma non che non si è cambiata la legge, lui stava dicendo. No, te ne mandano copia loro, assolutamente, non te ne mandano. A me mi avevano mandato la concessione nel 96, e più il coso dove ci sono le frequenze, come ti devi comportare. Niente, tutte le cose che non puoi fare praticamente, che non puoi fare modifiche, che non puoi utilizzare apparati oltre i 40 canali, tutto questo qua, non c'è altro. Papà, Natali, ci sei ancora? Sì, ma io ci sono. Stavo aspettando cose da loro, invece poi è un saputo che non ti mandano niente. Poi l'altro giorno mi ha detto, mi è arrivato un coso, lui, nel ministro delle comunicazioni, che tu mi hai la concessione, lui, l'apro, e come tu hai la concessione. La Gambiscia ti ha scritto che praticamente per regolarizzare la domanda devo spedire il documento. Tutto qua, io gli ho scritto, adesso tutto a posto. Quando vengo a trovare quel foglio, come ho detto prima, quello che stai chiamando a Natalino, è competente, dai. Sì, Natali, quello che mi hai detto tu va benissimo, però mi ha letto la tipa che mi ha risposto, ti ha detto ti consiglio mandare anche un'integrazione dicendo, sempre con la stessa concessione, dicendo che c'hai anche questo apparato per sicurezza tua, veramente. Perché se ti ferma la polizia tu cosa dici? Tu c'hai la concessione per questo apparato, dici dell'altro. Sei sbagliato tu adesso qua, ti correggo io, c'è scritto che il sistema allora presenti seguenti caratteristiche, Milan, modello, CTE, omologazione, numero, cioè, cosa si dice? Ti porta appresso il foglio che uno le manda a loro, e in più come cavolo si chiama, il versamento. Poi se a te ti trovo un altro apparecchio, allora non ne frega niente, loro guardano il versamento. Ti trovo il barattino, la finanza, lui su chi è, polizia, lui su chi è, ma i carabinieri, ma che non manco non ne ha fottuto da Eddie. Ti chiedono per prima cosa il versamento, se non vai su gli abili di buona. Controllo, non è una data, serve essere controlli, per le spese di controllo. No, aspetta, la domanda quando l'hai fatta tu? Morale. Aspetta un attimo Mario, che ne sta breccando? Avanti già! Sia quella di coso, di SWL che di CB. Quella lì ti è arrivata? Sì, quella di Daria Fulto, sì. E quella ti arriva, perché praticamente l'hai richiesta tu. Non la penso l'avevi fatta a novembre, dicembre. A me mi ha fregato, io l'ho pagata due volte. Vabbè, non me la futti nulla, non so quei 12 euro che mi fanno povero. Sì, ma non gioco e poi non rimango, però... Io diciamo che ho parlato due volte. Siccome c'era già l'antenna sul tetto, seguiva il controllo, cosa facevo? Cosa mi dicevo allora? Io non l'ho pagato perché ha pagato a gennaio. E mi ha dato un zocco. Mi sono era 2.000-4.000 euro di multa ci sono. Ti fanno loro loro, chi c'è la denuncia penale adesso, è tutto diverso da prima. Per 12 euro ti fai. Come si chiama? Bastamente 12 euro rischi di prenderti 4.000 euro di multa. Ma cosa mi ha fatto 12 euro? Questo li ho fatti, l'ho pagato tutto qua. Vabbè là, stiamo facendo un po' di. Quindi esponga, avanti Mario. Allora, facciamo entrare a Gianni. Avanti Gianni. Sì, una volta che l'antenna sul tetto, io quando l'ho usato il baracchino, facevo il dipporto, avevo, e te l'avevo stesso, cazzo, dimentica, la verità, stavo tremendo, eppure niente, poi una volta che ho messo l'antenna sul tetto, perché non sentivo nessuno, sentivo a te, sì, vabbè, a te, a Claudio, a Natalino, ma il resto non li sentivo, allora prima mi sono messo l'antenna sul tetto e ho fatto tutto, se no l'avevo fatta pure a gennaio, e vabbè, non sono quei 12 euro, non me ne ha fatti nulla. Comunque, per il momento io sono tranquillo, va, più che bello, non mi interessa. Anche io. Giusto, beato a te Mario, beato a te. Io. No, io ce l'ho già la concessione SVL, quella lì è ritta. Una volta che ce l'hai è ritta, non c'è problema. Ci sono le marce da bolla attaccate e niente. La concessione c'è ancora, la prima che ho fatto. Ma Mario, dimmi. Quando sono venuti da te a controllare a casa, cosa hanno fatto? Se devo un pochettino, hanno trovato il campanello e tu le hai fatti entrare, potrei anche non farli entrare. No. Quando loro vengono, se tu ti guardi la concessione, vabbè tu non ce l'hai. Quando loro vengono e tu c'hai la concessione, sei obbligato a farli entrare. E dove li fai entrare tu? Spiegami tu, cos'è? Non possono fugare in casa, ti dico come faccio a avere l'apparato? E tu devo far vedere, no. Ma se c'è una trattata con altri apparati mica li fai entrare. Cappa, li devi far entrare, se tu al momento ti rifiuti di farli entrare, ti sospendono la concessione e sta tranquillo che poi ci arriva la polizia a portare qualcosa dalla perquisita e ti frugano tutta la casa, se c'è roba nascosta. Te la trovano ugualmente, non ti preoccupare, perché un amico nostro, adesso non facciamo nomi, gli hanno trovato un apparecchio che non era denunciato e gli hanno trovato sotto letto, gli hanno fatto un curatore di grillo. Addirittura vengono a frugare pure, no, io pensavo che ti dico, mi faccio avere l'apparato nuovo che c'è in concessione, devo far vedere, ma se finisce tutto lì, lo porti nella stanza e finisce tutto lì. Poi se te ne trovano un altro, me l'ho mandato, ti va di nuovo, quello è giusto. No, invece a me, vedi, ti è successo tutto il contrario. Allora io ci avevo una stufa vecchia, cioè vecchia, era nuova la stufa, solamente che quando sono venuto qui a abitare, la stufa non mi serviva. Allora io piano piano l'ho pigliato e ho smontato tutto quanto quello che c'era all'interno. e ho fatto una specie di covo e ci ho messo tutti quanti gli apparati che avevo dentro qualcosa della stufa. E giustamente quando sono venuti a controllarmi la stazione, io gli ho fatto vedere sopra nel piano superiore, che poi non ce n'era più, c'era il baracchino omologato attaccato all'antenna e all'alimentatore, e hanno visto gli altri apparati, hanno pigliato e mi hanno iniziato a scrivere, dice c'è questo apparato, c'è quest'altro apparato, c'è quest'altro apparato, c'è quest'altro apparato, VHS, tizio KS Plurio, Mimumba, e niente, mi hanno fatto tutti quanti fermare, da lì è scattata la denuncia, perché avevo il VHS anche, non solo l'altro, ed era un rete trasmettitore. Allora era tutto dentro il mobile, messo bene, e niente, collegato non c'era nulla. Loro mi hanno denunciato e poi mi hanno assolto, perché hanno detto lui che adesso può tenere tutto quanto. La roba era denunciata che lui ce l'aveva, così che non è che si è nascosto niente, che non ce l'aveva. Lui ha dichiarato in questura che la roba ce l'aveva. E da lì non mi hanno fatto niente, mi hanno assolto in formula ampia. E c'avevo EPT, c'avevo il Kenwood, c'avevo un sacco di roba, il lineare, anzi due lineari, perché c'ho quello grosso e quello piccolo. E niente, loro hanno scritto, hanno fatto e poi al momento del processo mi hanno assolto, perché giustamente era così. KK, e il lineare non ti hanno detto niente, cioè lo puoi tenere senza utilizzarlo? Posso tenere tutto quello che voglio, anche la pistola se lo ritengo opportuno posso tenere, l'importante è che sia denunciato e che sia in regola. Ma un lineare mica denuncia un lineare, uno come fa a denunciare diciamo un lineare? Io in denuncia, la denuncia che ho fatto alla questura ci ho messo tutto quello che avevo, né una virgola di più né una virgola di meno. Natalino te lo può confermare, quando ho fatto io la denuncia, perché c'era anche lui quando l'abbiamo scritta. E così che niente, non è sfuggito nulla. Anche i codici li ho messo, sia del lineare, sia del VHS, sia di tutto quanto. Però una parte te l'ho scattata, così. A me, a casa mia, quando loro sono venuti, non hanno trovato nulla da ridire. Loro giustamente hanno detto che il signor Spano possiede a casa sua questi apparati. Bim bum bam, hanno scritto, hanno fatto, c'è la concessione di SVL per ascoltare, ti prestapra e via dicendo. Di nascosto non hanno trovato nulla, perché non hanno trovato nulla, perché quando sono venuti poi hanno frugato a vedere se c'avevo chissà che cosa, non hanno trovato niente di nascosto, tutto quello che avevo era lì e non mi hanno fatto niente, cioè mi hanno lasciato in formula ampia. Se ti interessa ti faccio vedere pure il decreto, così che non c'è problema. Sì, ma c'avevi qualche apparato non omologato, cosa te ne hanno fatto, te l'hanno preso? Beh, io questo qui che sto modulando non è omologato, è 270 canali questo qui, eppure non mi hanno fatto niente. C'era l'EPT, che adesso non c'è più, c'è un altro tipo di EPT, e non mi hanno detto niente. C'era il Kenwood e non mi hanno detto niente, capito? C'era il VHF del 140 e 170 e non mi hanno detto niente. Hai capito? Loro mi hanno fatto la denuncia dicendo che c'avevo questa roba qui, però il fatto non costituisce reato, cioè io a casa mia posso tenere tutto quello che voglio. È interessante che tu a me non mi trovi parlando e che non rompo le scatole a nessuno. Poi in base cittadina posso parlare con quello omologato o con quello non omologato, loro mica lo sanno. L'importante è che quando io smetto, per essere sicuro, mi distacco tutto. Allora non mi possono dire niente, perché non sanno con quale stavo parlando. KK. denunciata, ma lì sicuramente c'è stata qualche soffiata, qualcuno che ha denunciato, non è possibile che vengano così a casa tua a cercarsi. Beh, ma in questa frequenza c'è molta gente che è gelosa, capito? C'è quello che è geloso, che fa la porta, dice, quello lì c'ha, e cercano di farti passare in rogne. Io mica sono andato a dire ti cerca questo, ti cerca quell'altro, a me non me ne frega nulla, sono venuti da me, io ho aperto la porta, accomodatevi. La mia stazione è questa qui, e gliel'ho fatta vedere, senza nessun problema. Sì, ma non si sono messi a frugare loro, gliel'hai fatta vedere tu la stazione. Cappa, io gliel'ho fatta vedere la prima volta che sono venuti, poi quando sono venuti in Grecia, mi hanno fatto pure la perquisita per vedere se avevo roba nascosta, roba che non risultava nella denuncia. Se avevano trovato uno spillo che era fuori posto, ne avrebbero fatto la testa a cacco e anche di più. Invece non hanno trovato niente. Gaffa, gaffa. Quindi diciamo sono stati molto, cioè sono già venuti prevenuti. Sono venuti già sapendo, anche perché quando loro partono dalla questura lo sanno quello che tu hai denunciato e che non hai denunciato. E giustamente loro quando vengono ti dicono vogliamo vedere la tua stazione, vogliono vedere tutto. Se all'appello ti manca qualcosa, ti dici questo qui che fine ha fatto, dov'è? Capito? Gaffa, gaffa. Abbiamo una sabbatona. Dai, da che abbiamo ancora un uso. di tutti. Negativo. Ma Luca non era lui, chissà che era. Aspetta, forse, non ho detto che è Franco, forse era Franco, boh. Perché non ho spostato la baracchina, non avevo visto la baracchina. No, io anche già adesso, Luca, ero fuori anche io giusto al giorno, e poi dopo che il campo non veniva perché c'è mia suocera, ero stato troppo bene, quindi la radio l'ho praticamente un po' mollata, tutto lì. Ciao Roberto, comunque, ciao Luca e saluto anche Mario, poi non so che altro ci sia, questo canale, saluto gli altri ascoltatori. Ciao, là. Domani sera c'è i tuoi colleghi che devono venire a testa la cucina. Oh, papà. Colleghi? Sì, già. Ma roba piccola? Credo che sia roba piccola, non credo che sia roba grande. È per la mensa che c'è lì a San Vincenzo. Ah, è scavagata. E mi piace scavagata, già finita la bella. Cosa? Mi piace la piazza, quindi ce l'ho stati. Sì, io ho già fatto il pavimento, domani mattina dovrò vedere la piazza della cucina, devo imbiaronare e lei è a posto, così domani sera alle 3, quando vengono possono fare quello che vogliono, perché dalle 8 alle 3 già asciuga un po'. E niente. E poi mi devo conservare ancora un paio di pezzi, però domani finisco io. Capretto? Calma, brava. Infatti gli ho chiesto, ma chi viene? Franco viene? E mi ha detto, non lo so, qualcuno verrà. Ma è scappa. Sicuramente verrà Stefano, perché io domani sono al Falino, capito? Questo giorno? Forse sì, non lo so. Se ce l'ho fatto per lui a salire, non ho perso. Scappa, scappa. No, se no ce l'avevamo trovati lì. Non lo so, se sono al Falima, perché devo fare, sto finendo delle revisioni di giù alla playa lì, praticamente mi servono tutte, quindi domani devo finire a frigoriferi, forno pizza, tutta quella roba lì, capito che c'è. Cappa, no, fa niente, ti ho chiesto perché so che devono venire i tuoi colleghi, è vero, poi chi venga non lo so, io ho chiesto se venivi tu. E lui, quel tipo mi ha risposto che non sapeva chi veniva, ha detto qualcuno verrà. Ma che è venuto? Tipo alto, non tanto magro, però è bello pieno. Papà. E allora è Mario, e dopo questa messa? È presente la via dei Carabinieri. Cappa. Per scendere da lì. Con la via dei Carabinieri quando tu scendi per andare all'ospedale, lì all'angolo. Ah, ho capito. C'è la piazzetta c'è davanti, con la scuola. Ah, ho capito cosa stai dicendo, dai. Guarda, mi pare che un istituto c'è. No, niente istituto. C'è la scuola e la chiesetta con questa sede. Ho capito qual è, sì. Ma andate a piazzare, cucine dopo. Cucine, boh. Ma cucine nuove o vecchie? Credo nuove, boh. Sicuramente verrà Mario, non so se c'è lui o se sale Mario. Adesso vediamo domani come ci organizziamo, praticamente, tutto lì. Andate, caro il positivo. Ripendi, Luca. Io. Per carità. E che di? Cosa faccio? Faccio un finger pong. Comunque, fra, a te la taglia non ti è arrivato niente, non è la concessione del baracchino. Come? La concessione del baracchino? Non ti è arrivato niente, giusto? Nulla da loro, qualche fuglio, niente. E mi è arrivata la licenza di essere che vuole. A me lascia parlare quella, fra, la baracchino sto dicendo. No, ragazzi, mi è arrivata la domanda e praticamente quella cartolina che c'è più versamento. L'ha ricevuta di ritorno, cappa. No, perché io sto per sapperlo, tutto qua. Ma io sono arrivata prima di me, perciò pensavo che sia arrivata che cosa. Ha andrà bene, cava. Ma io come se l'hanno spedito? Io gli ho spedito i documenti, la patente gli ho mandato. No, io l'ho telefonato per essere un documento, ma diciamo no, sta a posto, non c'ho problemi, boh. Perché sicuramente lui non lo soffre, a me mi hanno chiesto e gli ho mandato. Yeah. guarda che ti confondevi col codice morse, era un po' complicata la storia. Se non faccio la telegrafia non c'erano problemi, però adesso non c'era molto, praticamente sono davanti a quiz, ce ne sono un esatto, una sbagliata e una somigliante, non so io. Ma ti errori permettono? Ma a quanto ho sentito sono 60 domande, su 60 ne puoi sbagliare 30. 30? Che cazzo? Grazie. Ma loro la deve essere toccato. subito e non ha ripreso. Sì, non è che l'ha toccato, è che non aveva gli argomenti, era davanti a tutti colori. Io gli ho detto che io ho quello che aveva detto, se non è marcio, lui ha detto che è marcio, ma è un pugno. Sì, sì, no, ma quando l'ha detto un facchino, più di quello non puoi fare, si è rimasto male, è rimasto muto, non ha detto niente. Ricordo bene, o stavo leggendo una chat, se non mi ricordo, Giro lì, a canale 5 gli sta facendo qui, sto qua. E poi stavamo parlando che praticamente aveva partecipato al Sanremo. Non lo so, la novità non lo sapevo io. Questo non è un momento di sovacco dei Pollestanti, almeno c'è un Pollestante. Non è Marco, ecco che è Marco, vabbè. Questo va di Marco a noi. Eppure si affondere di là a palazzo, cazzo, non sappiamo funziona la programmazione. Tu vai in giro, poi si cerca tutti quanti gli sponsor, dice, forza di paese, in là viene di là, e lui si cerca nel paese tutti gli sponsor, non c'è il biglietto di là. Vabbè. Tu gli fai prendere un carrozzino e io devi fare chissà maniera. Ma non è questo l'abbigliamento, non l'hai mai visto in HV? Ah, suo, dei genitori? Suo, suo. Vabbè. Sta lavorando onestamente, non mi sta rubando. No, no, non dico quello, ma non ha mai fatto nulla in vita sua. Poi ha fatto lo DG, ha fatto lo speaker, cioè lo speaker in radio, il coso in televisione, ha fatto di tutto, mi so disco. Ha cercato di fare il cantante, ma non è messo il suo. Vabbè, comunque sia, è bravo, io, insomma, a me non... Quanta gente dice che è un bel antipatico, un bel gaggio, invece no, boh. Io vedo una persona normale, poi niente, no. Fa le cose fatte bene, diciamo. Presenta bene, sto qua. Ma ti volevo dire, lasciamo il tempo. Comunque di persona non la conosco. No, non la conosco di persona, anche là tu, amico Giulio, lo conosce a... Come si chiama? Che devo fare monitorando chi conosce lì, non lo conosco. Sì, in televisione, roba, dal vivo non l'ho mai vista. Allora mi faccio vedere, visto che si fa stare di noi a parlare in continentale, ma le sentite? Ma dico una cosa, chi costruina ha visto tanti attori, cantanti, ma le varie, ma ormai ne ha visto qui. Sì, niente da dire, è stato un sacco di anni fuori in continente, ma non è nessuno, c'è cioè un ignorantone, a livello qua di Sassari può dire qualcosa, se si sposta da Sassari lo vedo in faccia che non lo sa fa nulla. Sì, vabbè, roba, però ci sono riusciti. Vabbè, io lavoro per le televisioni, ah, l'ho visto io, cioè stamattina, quando è stasera mi va stamattina, anche non mi ricordo. L'ho visto la pubblicità di quelle stufe a pellets, vabbè, quelle stufe lì, e stava facendo la pubblicità. Sì, ormai che entri nell'antico poi ti chiamano per fare le facce pubblicitarie, tutta questa cosa qua, non per lui, però non è nessuno, cioè, lui è convinto da se Maria De Filippi o tipo Mado, ma non è nessuno, è proprio zero. Sì, vabbè, chi su chi è, vabbè. Si fa valere per quello che è, non è che è. Kappa kappa, vabbù, riprendi Gianni. Ma non è che c'è questa sera, se mi piace un altro zero, non c'è cassetto di vita. Sì, è vero, è andato zero. Comunque ti dico una cosa, Roberto, io l'ho sentito da un po' di persone che Pollestanti c'è un giro di donne, ma donne però, proprio canne. Un macco, eh? Allora non hai sentito bene a meglio di quello lì, ci sono altri giri di flussi, Luca. Cosa? Ci sono altre cose sotto, non si possono dire qua, non è solo donne. Sì, vabbè, visto che comunque mi ha detto che c'è un giro di donne, proprio donne buone, una buona di lastra. E lui, niente, mette questo giro qua. E io non ce l'ho dito, lei non è che non è lì, perché? E come ne Claudio, dimmi Luca. E come ne Claudio, dimmi Luca. Ma volevo dire, io lo conosco da piccolino, era un malengo. Non è un malengo, capito? Ma che è un imbecille, va per famiglia, si chiama, si è laureato. Capito? Io non c'è la merda, sono lì, perché? Non è quello di Sigmaglia, perché a quanto pare fanno anche filmini. E lui è grandissimo orecchione. Dove sto anche io, Claudio, confermo al 100%, perché ci conosco gente che lo conosce molto bene intimamente. Io non ho bisogno di conoscere, già vi sono due grossi. Non guardiamo solo l'aspetto esterno, io si può controllare in andato in oculi. Oh, vabbè, ma la... avevamo detto, ma la ti racconto, sono andato a Urgi, quindi ti sto dicendo. Tanto hai detto, vabbè, ma hai detto che farà il guru, ma sì. Ma ci ho detto che in mezzo a... ah, un giro di queste donne, una prima dell'altra. Non ti aggiungo che non sono lì, perché hai capito? E lui ci arriva, non niente, hai capito? No, questo non me l'ho detto, ci vuol dire due volte chi usai. È una grande, voglio. Io lo conosco quando era in un'altra in una radio privata, ma lo sai che anche se me ne va via presto e neanche le guardava in faccia, proprio non le attiravano assolutamente. Conosco altra gente che era insieme a lui, e per questo lo sto dicendo, e lui non li biasiare le femmine. Ma non lo so, Robbe, non... Senti, sì, lo so, ma sono curiosati. E mi ha detto così, poi voi mi state dicendo che lui questa mente, vabbè. Non per lui. Non per lui. No, per Giubaedo, sai come ti dici? Ma io per Giubaedo non buon per lui. Vabbè, buon per lui, nel senso che vuol dire che vi piace la cartoffa. Sì, un po' di piace la cartoffa. Se ti dice con i bini, i prezzi già per i prezzi. C'è un male di radio sulla categoria CB, cioè B, ma... tirato di fianco, non riuscivo a capire chi era. Ecco, no, ero con la recca appoggiato di fianco, cioè il malacchino non riuscivo a sentirlo bene, ho sentito il fischio, ho mandato il fischio e poi non ho sentito fischiare, però non ero sicuro di tuo Luca. Ah, se tu vai a calcare. la 6, un metro, la 6 neanche, la 5 per passare il filo. Solo il buco è sottile, un pezzo di intonaco, però le ragioni hanno fatto, va bene, lo si vede che tanto dietro il letto. Ai, ai, ai. Vabbè, purtroppo non avevo la punta lunga, quando sono arrivato c'era un pezzettino col buco, alla fine la lavandero via, ho preso un punto del lungo, gli ho dato un colpo, e se mancava l'ultimo pezzettino del mattone ho spazzato. Che riguarda questi apparati, sono uno più bello dell'altro. visto, cioè ce l'ha rivista sulla, su internet, ce n'è uno spettacolare, sembra una HS Rambo, mi pare 90-55, tutto digitale, spettacolare. Quanto lì? niente. Adesso lo rimesso a moto per vedere come riuscire, ma mi ha detto che c'è bene. Tutto che c'è tanto. Ci mi ha detto, faccio in tutto. portato anche su un altro sito, praticamente c'è una, sono degli amici che hanno praticamente fatto la compravendita e ci hanno messo il sito su, su internet. tre dischi, uno grande sotto e due piccolini sopra. Questi due dischi sembrano lame di affettatrice. Ah, sì, ho capito. Sto guardando, Antella sì, ma Antella mi numero, Antella lì, Antella là. Dove si trova, tu, in questa paglia non c'è. Vediamo se ce l'è l'altra. Non mi sembra che sembra, centrale, breve tratta, nuovo al fabbrica, che ambala Santella per CB Ferrora, marca Milan, caratteristica normativa è lunga, sono 2 metri, antenna la base, bonifica, mi bomba, non si la fuso, non si viene. Vediamo, è grandissimo, è grandissimo, vediamo, eccola qua. Controllare i legni. ha iniziato prima a acquistare, acquistare e va a vendere, vende e vende. Il prezzo è allucinante, 300 euro è assurdo, secondo me per una cosa del genere. Sono l'anno 48, l'ho chiesto io dalla GBC, scontato 180 euro. Ma se quello che si hanno fatto un numero di apparati che costano un sacco di soldi, il Pluto lo stesso costa abbastanza, non è un apparato da 13, no? C'è quello strumentino della ZKG, non ce l'ho presente esattamente, ma è un apparato che costa anche qualcosina quello lì. Infatti mi pare strano, dico, ma cosa riusciamo a vendere così poco? No, le negoziante non può fare quelle cose, c'è delle zone assicurate le fondamentali che fa quelle cose, capito? Tutto lì. Grazie, giudizio, che mi faceva la bella niente, non ti sei mai andato di lì? Fesseria, un computer, ma tanti anni fa, parliamo 12-14 anni fa, prima di sposarmi, qualche occasione c'era, ma poi hanno aumentato troppo i prezzi delle tasse di registrazione e cose del genere e non conveniva più. Sì. Tu non sei arrivato a averlo questo diritto, qualche amico della zona avevi, cos'è? Perché loro sanno come intervenire, ma gli aghi bisogna un attimo dalle baracchine, ma chissà quante altre cose possono tirare fuori loro. Ormai vabbè non ne ha più bisogno, ma faceva tanti di quegli affari quel tipo, allucinante. Io non credo, ok, lo pure. E se come il contenere non andrà, è sciuga. C'è anche un valore, un vintage CD Johnson, 223, va a volare, è un 2008 che va a volare. Ma se hai preso tutta questa roba, li hai preso tu? Se va a volare è stata fissa. Io mi sono il conto a te, mio, una cosa del genere. Ma santa mi va a vita, non mi chiede che già stavo detta. E vabbè, cazzo, sempre, sempre in larga, sempre, non dico regalata, però per quel prezzo ti saranno anche cose, magari dice non me ne posso nulla, però cazzo, 300 euro è un prezzo regalato, blu, non ne ho mai sentito io. Tra aggiungere tra il coso, come si chiama? Quell'ala 48 e un altro ala è già arrivato a più di 300 euro. No, questo Lincoln, Jackson, non lo conosco. Guarda, Lambert, non ti voglio dire, però mi sono tutti omologati. Visto proprio ieri questo President Hermes. Non è bellissimo perché con gli apparati anni 60, col manopolone dei canali e con i numeri incorporati, dai, non è, è però cazzo, sempre in mezzo al gruzzo, no? Ma si è capito, è brutto, tu vedi a cavolo c'è qua, no, ma capi mille c'è, e mi schiaccio gli strumenti con i baracchini, con i baracchini mi piacciono i piatti, che vanno bene, gli strumenti viene tre. C'è un tiro Manilla e Luca, l'ha capito al 101 e l'altro ho capito che cos'è lui. Allora, CD Alan AM, capisci? C'è questo anche CD Alan 199, cos'è? Non ce l'ho qua il catalogo della CTE, però c'era un Alan, forse sono su altre frequenze, 144, può essere quello. Sono tutti baracchini. Domani Mario ti dico, se ci sentiamo lo guardo, faccio il catalogo della CTE e ci sono tutti questi apparati. Non dovrebbe essere vecchio comunque quello alla 199. E poi con l'HP1000 non è uno strumento di misurazione lo stesso? Sì, sì, sono tutti strumenti vecchi della ZG. È una bestiolina, il top di gamma mi pare. Infatti, mo vediamo, aspetta che apro questa pagina, non è così che mi deve venire. Anche il culo mi fa male oggi. Allora ti busco una sedia girevole, Claudio. Me ne ho presa vista quella che mi sono preso io. Non l'hai vista, già ci è venuta, sì. A 130 euro questa sedia, non è girevole, non è una testa, tutto. Ma l'hai vista quella che mi hanno dato a me? Ne ho preso due. Quella dove mi ho messo, dove c'è il baracchini? Quella lì è un'altra, 20 euro. Stanno svuotando di un ufficio, se ne rampene, e me ne aveva anche un'altra. Oh, gappa, vogliamo le ragazzi. 1500 watt. 4 giorni, 18 ore. Questa ce la giudichiamo, eh. Un'offerta. Questo è un altro, visto? Che cosa bella, ragazzi, fotografia grandita, andiamo a fare la fotografia grandita di questo morto. Comunque Claudio, tienimi presente per uno di quegli strumenti, che io non ho niente di strumentazione, poi ci facciamo una cosa. Hai visto? Questo è il mio, e ce l'hai fatto a funzionare. Thank you. che so, mi sto dedicando un po' alla parte amatoriale, quindi sto cercando dei pezzi che mi mancano, per vedere un po' di completare le cose che praticamente ho, le cose che ho. 44 pagine mi sono circa, 44 pagine. Grazie. ti stufi, poi lo metti nella ruota e lo metti sotto l'arco. Già ti sento il quarto prima, quando lo stavo sbloccando a Roberto, sul 20. Prima eravate sul 11, non un po' Luca del Becosa, e voi siete spostati al 20. Purtroppo è così. Ma adesso sento che sia un po' fumassato. Allora, poi ho fatto che ho preso me. Arrivo. Io dovete organizzare un qualcosa per riscaldarti la camera. Perché quando ci facevi ha fatto già dove siete sentito un po' un letto. Infatti ci ho aumentato il calamento, perché spegnersi alle 10, lo facciamo spegnere alle 11 e mezza, così rimane più calda, capito? Ma faccio la spesa un altro giorno, poi il caldo delle radio, capito? Terminato tra le 5 del mattino, il caldo delle radio e cose, poi ho stato un po' in cucina, mi sono bevuto una qualcosa, l'aranciata, una cacola bella fresca, evidentemente mi ha fulminato. Invece mi sta salendo di nuovo la febbre, però se mi curi per peggio, perché mi sono stato tutto male in testa stasera, con il cazzo tutto il giorno. Non gli arriva, vabbè, pazienza. E quindi Luca, come è andata a tre la DSL?

funzionando male, rispetto alle altre volte, se sono forte. vecchio, che sono da mezzo milione di tutti nello stipendio. Il 250 va bene, con un 140, vedi, come quello che sarà in asta, quello che noi sono aggiudicati. Però il 250 si sembra lo subito, è una cosa che per vedere se c'è già massimo. E infatti lui è uscito paralizzato a 150 euro. Tutto lì non è che sia conveniente. Ma secondo me è gente che non sa comprare, perché il malore non è, diciamo così, un allarmario. Il malore è come una macchina di tumulti. Dopo tanti anni non c'è male niente. Allora, ma questa gente quanto vuole ricavare? Cosa cavare c'è? 150 euro. Tutto lì, non è che, secondo me, la gente ancora è di quelli con il tempo. Non voglio pago qualunque cifra. Capito? E quindi sa, allora mi fa. Però se uno sa fare bene così non lo ha, dice, ma sono passato da 80 euro perché non avevo mai 250, non ho capito. E così via. Sono gli appuri che sono anche quelli che non ne capiscono nulla, se ci mettono gli euro se non ci fanno risultare il posto. Thank you. quello sì. Quello... Ciao, ciao.